Dicesi follia, eccola, un tipo di melodia portoghese del XVI secolo che... grazie Bolani, grazie. Che nel periodo barocco ha avuto numerose elaborazioni. Allo stesso tempo è anche la condizione del disagio che affligge musicisti scampati alle epidemie di passacaglia, come qualcuno qua. Come disse Johnny Cash prima del concerto di Little Big Horn del 72, a cavallo pazzo non si guarda in bocca. Ma un pianista folle è un musicista geniale o è semplicemente un poveretto da internare? Nessuno lo sa con certezza. Nessuno, tranne naturalmente il dottor Djembe. Eu botei um menino da laboral para você. Ah, o doutor Gemê, uma lista em modinho da reeducar, uma graminha da recortar, uma nova rosa da consimar para você. Il dottor Gemê, via dal solito tam tam. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini. E voilà! E voilà! Buon Natale, Bollani, domani è Natale! Buon Natale, Riondino! Allegria! Buon Natale alla città di Firenze, che vive questo Natale con... fiorentinità. Con fiorentinità. Qual è il tema di questa puntata, Riondino? È la follia. La follia. La follia. Abbiamo bisogno di un notaio per certificare la follia. Mirko Guerrini, ecco il notaio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon Natale. Grazie anche a voi. Bene, oggi il tema è la follia, quindi è per questo forse che questa musica che ascoltate già introduce il tema. E Bollani è per questo che è vestito forse da Orlando Furioso. Certo. E anch'io mi sono vestito da Astolfo. Perché alla fine della puntata andremo a recuperare il senno di Bollani sulla luna dove, come dice l'Ariosto, sì, e vide anco tra l'altre quell'ampolla dove galleggia il senno di Bollano che lì volò quando la dura colla sul pianoforte gli inchiodò la mano. Molto bello questo è l'Ariosto. È l'Ariosto. È l'Ariosto. È l'Ariosto. E l'ospite in questione? L'ospite in questione lo conosco personalmente, quindi posso garantire per lui, ed è Nico Gori. Nico Gori da Vinci. Buongiorno. Buongiorno. Buon Natale. Buon Natale. Facciamo delle domande all'ospite, Riondino, o vogliamo prima sapere qualcosa di lui? Cerchiamo di capire qualcosa di più. Cerchiamo di capire qualcosa. L'enciclopedismo. Questo personaggio misterioso. Sì, e chi ci dice qualcosa? Il Radichelli, forse. Il Radichelli. Ma questo Radichelli esiste o no? Questo Libero Radichelli è un importante opinionista che sfoglia i giornali, certo, cerca notizie sui nostri artisti e ce ne parla, ci fa una sintesi. Noi ascoltiamo cosa ha da dirci oggi. Oh, Nico Gori nasce, cresce e vive in mezzo a noi. Non si può curare. Non suonava il clarinetto perché gli avevano detto che così imbroccava. Ha cominciato a imbroccare le note, non ha più smesso. Su Topolino c'è un bel editoriale firma di Mino Fucillo. Vedi che c'è la paragona ai giorni migliori di Paperoga. Paperoga, si ritrova in questo parallelo il nostro ospite, Paperoga e Nico Gori. Cosa hanno in comune Paperoga e Nico Gori? Passiamo alla seconda domanda. sì, perché non credo di avere niente in comune. Lo chiederemo a Paperoga. Che viene secondo ospite. Me sì, lui è più informato. Lei vive al limite sull'Arno. Sì, ridente paesino toscano. Ho capito. Attenzione. Non vuole andare a vivere a Perugia e... al limite sull'Arno. Perché Perugia? Sai che così è la frase, così cioè, vive al limite sull'Arno. Non vuole andare a vivere nell'Arno, quindi resta ormai al limite, giustamente. Nico Gori da un paio d'anni è l'unico italiano giusto, che lavora in una delle orchestre più famose del jazz europeo, che è la Vienna Art Orchestra. Vienna Art Orchestra. Lei sa cos'è la Vienna Art Orchestra? Certo, è una delle più famose orchestre europee. È l'unica orchestra europea dove lavora un italiano, no? Sì. Di nome Nico Gori. Dal libro del dottor Gembe, sì. Elogio della follia, da pazza idea alle folie bergère. Il dottor Gembe, diciamo, ha limitato un po' il campo. Sì. La follia nella musica ha sempre trovato terreno fertile, forse perché fra i musicisti molti non c'erano col cervello. Robert Schumann, tutti sanno che si sottoponeva a esercizi massacranti. Sai che Schumann si tirava il dito, per ottenere una tecnica migliore sul pianoforte, si tirava il dito indietro perché pensava che fosse utile. Si è fatto molto male. Si slogava le dita per migliorare la tecnica e ha perso la mobilità. Come sta facendo lei ora? Come sto facendo io ora? Che siamo in radio, mica si vede. E allora smetto. In più Schumann si fece tagliare tra pollice e indice, ma anche nelle dita centrali per poter avere più estensione. Un altro pianista completamente pazzo era Beethoven. No. Beethoven era sordo, non era pazzo. Mi spiace contraddirla, ma Beethoven era sordo negli ultimi anni della sua vita. No, era pazzo e no, era convinto di essere sordo. No, le spiego. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. No, devo dire, i musicisti pazzi vanno comunque suddivisi in varie categorie, no? La pazzia può assumere diverse forme. Ci sono i musicisti maniacali, secondo il dottor Gembe, quelli che fanno ricorso alla musica seriale come rimedio alla loro patologia. Quindi Weber, Messiaen, Ligeti, che hanno tutti frequentato la clinica di Darmstadt insieme a Sestilio Cabala. Sestilio Cabala, lei non se lo ricorda? I numeri del mondo. È quello che decise di numerare le cose del mondo. Cioè, giustamente. Secondo la propria poetica, la propria visione, in 37 CD, se non sbaglio. 37 CD, ogni CD aveva un certo numero di cose da numerare, dall'1 al 1000, non so. Vogliamo sentire un esempio di Sestilio Cabala dal primo Ricordiamo Sestilio. Sì. Uno il cielo, due la terra, tre la luna, quattro il sole, cinque l'acqua, sei la stella, sette la notte, otto il giorno, nove i diti, dieci i denti, undici le scarpe, dodici i mesi, tredici il mare. Ma perché le scarpe? Si ricorda? No, è una scelta poetica, non c'è un motivo vero. Lui ci sta dicendo una serie di numeri e di cose. Sì, ma in questo modo ci racconta il suo mondo, in fondo. Beh, è apprezzabile perché ogni cosa è un numero, in fondo. Cosa ne pensa Nico Gori di questo importante autore, esponente del Novecento? Che ne dici a Vienna? Beh, è importante. Serve qualcuno che si prende la responsabilità di fare una cosa, di numerare il tutto in tutti questi CD. Importante. Bene. Musicisti rintronati. Sì, ecco, questo capitolo ci porta inevitabilmente a parlare di un musicista che lei conosce bene, mi sembra. Arcibaldo Confusoni. Ecco. Ci dica, ma sto Confusoni. Confusoni è un grande tenore postmoderno che ha capito che le parole sono porte e che portano da altre parti. Cioè. Quindi si può entrare e andare in altri mondi. Molti pensano che sia semplicemente affetto da demenza senile. Lui parte con un'aria e poi, siccome ha un passato da piano bar, entra in una canzone a musica leggera. Noi invece siamo sulla prima ipotesi. La porta semantica. Capito? L'universo semantico di una parola che inizia a vorticare e attraversa altri universi semantici. Certo, sentiamo un esempio di Confusoni che canta l'opera. Li piamo le lieti calici che la bellezza infiora, e la fuggevo l'ora sola ti vorrei per dirti quello che non sai che c'è. Mi batte il corazon, ho visto un re. Cari scuse! Ave, sì, ave, piano, di piano, negli eti calici. È la rappresentazione quella del 67 a Milano col coro. Ah, ecco, il coro della Scala è questo, no? Il coro della casa di cura, probabilmente. gli amici vecchietti. Bene. Ma la follia è tipica del mondo del jazz. Forse è il caso di far sentire un brano dal vivo. Sì, io credo che sarebbe bello ascoltarlo anche con quel musicista che lavora con l'orchestra di Vienna. Sì, ce l'ho. Ah, ce l'ho. Ecco, vedi ce l'ho. Che c'è. È Nico Gori, che ha, fra l'altro, ha inciso anche dei dischi a suo nome. Forse da un disco a suo nome viene il brano che stiamo per ascoltare. Sì, dal primo disco che ho fatto un po' di anni fa. E il titolo del brano è Fluk ed è dedicato al mio cane, appunto, vedi, per talmente folle che mi metto anche a scrivere i brani dedicati al cane. Fluk, Nico Gori con Mirko Guerrini e Boboani. Thank you. Salve a tutti, sono Nico Gori e desidero sostenere il concorso Ora d'Aria, indetto dal dottor Jambé per lo svecchiamento dell'opera. L'opera Fifì lo sbarcarolo di Guido Gommone da Lampedusa narra senza retorica la dura vita di uno scafista ucciso dalla gitana di cui era innamorato, dopo un contenzioso sulla scala. Tenore. Scendi da quella scala, gitana maledetta, rendimi la maglietta. Non vo' morir così, l'ultimo colpo d'ala della mia giovinezza e poi verrà la pala a seppellir Fifì. Molto bella. queste, io non so, lo svecchiamento dell'opera, ma io non so se sia necessario. Le opere sono così belle, le beh, aree, no, secondo me c'è da rilanciare questi argomenti, sì, nuovi, insomma. Questi giovani che partecipano al concorso mandano un'aria che viene scelta, e poi dopo i ragazzi vengono mandati dal dottor Gembe in una baita. Buona. Sì, in realtà chi vince il premio, chi vince le selezioni e va avanti nel concorso viene appunto mandato nella baita di Bora Bora con il cane da guardia del dottor Gembe, che si chiama Gluck. Gluck, un nome simile al cane di Nico Cori. Okay. Sì, è vero, sì. E poi c'è anche un gatto, no? Sì, che è un Rimsky-Korsakov di razza. Benissimo. Volevo complimentarmi con la musica fatta da voi poc'anzi, molto bella. E adesso credo che dobbiamo passare, Bollani, al lettino del dottor Gembe. Certo, il momento in cui si analizza una canzone. Che canzone è quest'oggi? Ecco, sentiamola. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Franco, esci dal bagno e vai a giocare con gli altri bambini. Tu mi ricordi? C'era una canzone di Riondino così. C'era Battiato, un grandissimo maestro che ha scritto questa canzone intitolata La cura. Che è dedicata a qualcuno che aveva dei sbalzi d'umore, dei dolori, delle ossessioni, delle manie, ingannato dal suo tempo, vittima di ingiustizie, fallito per sua natura e pieno di turbamenti. Però ce ne parla un Antonio Pascale, che dovrebbe essere in linea al telefono. Buongiorno. Sono pronto, buongiorno a voi. Buongiorno Pascale. Buongiorno a voi. Pascale, scrittore, giornalista, è un piacere averlo con noi per analizzare sul lettino dell'analista questo Battiato, La cura. Allora io mi stendo su questo lettino, sì, e mi ricordo che nel 96, quando questo album uscì, la prima canzone era proprio La cura, se non sbaglio, incontravo soltanto ragazze che dopo averla sentita piangevano sempre, si commuovevano. È una bella canzone, loro erano particolarmente commossi. Ho questo ricordo netto dei sabati sera, nei quali andavamo in macchina verso una pizzeria e dalla radio Battiato cantava. Loro ascoltavano la canzone, poi quando finiva abbassavano la radio e mi guardavano sempre storto. Come? Perché? Non era colpa sua se c'era questa canzone in radio? Perché volevano dire: tu non stai così. Tu non sei così. No. Tu non sei così. Tu non sei uno che promette le cose come sa promettere Battiato. Avevano ragione, io non sono davvero così, io non so cosa significhi. E le portavi in pizzeria, però... lei? No, è un po' disperato. Dire, che significa tessere i capelli come tramite un canto? Io davvero non lo so, non lo so. Cercavo anche di recuperare portandole non in pizzeria ma al ristorante, però era troppo tardi. Io non ero quell'uomo lì. E quindi ero veramente affranto. Del resto adoravo Battiato e pensavo che questa canzone fosse veramente molto bella. Però ne ero anche ossessionato, ero invidioso. E allora ho cominciato un poco a fissarmi su quest'idea. Che cos'è oggi la cura? Che cos'è? Cos'è? E un giorno, leggendo un libro di Ivan Illich, famoso, certo, intellettuale, mezzo prete, poi comunitario, pedagogo, insomma, lui dice a un certo punto: io sono contro il concetto di cura. Ebbene, Illich diceva questo: la cura ha due cose che non mi tornano. La prima è: chi cura pensa sempre di liberare, di liberarsi dal male, cioè di estirpare il male che c'è in te. Cioè di purificarti con il suo bene. Questo concetto è lo stesso concetto che muove i fanatici della politica estera americana. Cioè io invado un paese per estirpare il male che Battiato paese... non c'era nell'esercito, no, vogliamo... non c'entra, però il concetto è un po' quello. La seconda cosa è che la cura è un po' un'ingenuità teologica, cioè in verità non si può estirpare il male, si può combattere, ma il male non si può estirpare, cioè il diavolo esiste. Anche mio figlio, che fa catechismo da poco, lo sa. Cioè, io a questo punto sostituirei la parola cura, se poi posso permettermi, con la parola manutenzione. Manutenzione. Ecco, che secondo me è più onesta. Cioè, chi fa manutenzione non dice io tesserò i tuoi capelli come trame di un cazzo. Dice guarda, fai qualcosa nei capelli, Davide, mo te la tolgo. Certo, ho capito. È uno sguardo più leale, non c'ha bisogno di figure retoriche per nobilitare la propria azione. Ecco. Certo. È uno sguardo più basso, più umile, che però ci insegna che le grandi azioni spesso non vengono notate, sono fatte da piccoli uomini che non vogliono attirare l'attenzione su di sé, cioè non ti vogliono ricattare con le emozioni, con le parole, con i concetti alti. Ecco. Battiato ha dichiarato che questa canzone è dedicata a se stesso, quindi cambia un po' tutta la cosa. La Io ho avuto anche la sensazione che stante le attitudini compositive contemporanee, istiche del maestro Battiato, egli avesse in qualche modo raccolto e sintetizzato, come è uso fare, una serie di frasi tipiche anche, diciamo, per esempio dei bugiardini delle medicine, no? C'è questa, certo, c'è questa specie, io ti curerò, tu guarirai da questo. Tre volte al giorno questa roba qua, quindi sia più una cosa di tipo quasi da sintesi farmaceutica. Farmaceutica, certo. Quindi nella farmacia c'è un elemento teologico per certi versi. Secondo Ivanilk sì, perché presuppone un sistema di potere in cui c'è chi è sano e ti cura, chi è malato, che non può farcela senza la tua azione. Certo. Quindi questa cura contraddice il principio della responsabilità individuale. Cioè, io da solo, senza le mie, senza il tuo intervento, non ce la posso fare, ma non è vero, se la puoi fare lo stesso. Benissimo. La ringraziamo molto di queste osservazioni, Antonio Pascale, grazie mille. Ma com'era la canzone che lei scrisse negli anni Ottanta? Franco, esci dal bagno, non era una Franco, esci di camera. Esci di camera. Dai a letto alla tua mamma, vai a giocare con gli altri bambini. Altrimenti mi diventi grullo. Noi amiamo però Battiato. Certo. E andiamo avanti. Credo che possiamo addirittura eseguire un altro brano dal vivo insieme al nostro ospite. Con quel ragazzo dell'orchestra di Vienna. Certo. Che era, ormai non c'è speranza. Della Vinci Art Orchestra. Della Vinci Art Orchestra. Va bene, come si chiama questo brano che stiamo per eseguire, Nico? Si chiama Belzebù. Thank you. Io direi che è il caso di aprire un filo diretto con gli ascoltatori. Sì. Ci siamo resi conto anche che è importante coinvolgerli con quello che una volta si chiamava quiz, che già al dottor Gembe sperimentammo. Sappiamo di avere un pubblico folto, ma soprattutto colto. Sì, folto e colto. Di... bella, folto bella questa assonanza. Sostanzialmente è questo. Notaio. Notaio. Il quiz di oggi si intitola La voce misteriosa. E si tratta di indovinare, da alcuni piccoli indizi che vi faremo ascoltare, qual è il personaggio misterioso che è venuto oggi a trovarci in mensa Rai. Non è semplicissimo. Sentiamo gli indizi, prima dalla regia. Devo stare qua. Beh, devo dire che è veramente difficile. Mi sentirei di dare un aiuto. Sì. Mi sentirei di dare un aiuto. E in aggiunta a questo indizio, vi diciamo che la parola preferita dal personaggio misterioso è pane. Pane. Con questo vuoi. C'è in linea qualcuno? C'è già qualcuno in linea. Beh, è Giordino. Pronto? Sì. Giandino, sono Lapo. Lapo, ecco di nuovo. Dicevamo, camionista Lapo. Camionista, bene, ben trovato. Lapo. Siamo da Canterbury. Ah, Canterbury, è andato lontano Lapo, sì. Sì, sono uscito pazzo, sta presso intellettuale in pellegrinaggio. Prego, cioè lei... sono 3 giorni che aspetta Zichichi, lei aspetta Zichichi? Sì, mi sono nascosto nel rimorchio, sotto l'arco rampante della cattedrale, che se non vuole passare. Mi scusi, ma lei è a Canterbury, sotto l'arco della cattedrale, e aspetta il professor Zichichi, e perché? E che ci fa? Schiattato! Ma perché lo vuole schiattare? Ma no. Perché? Perché? Io non ho chiesto schiattato all'inverti, ma l'hanno imbrogliato, mi ha detto Zichi che facile, tiene capelli ricci, la capellina data si vede a 2 chilometri. Ma che bisogno c'è di ammazzarlo? Io questa scusa ci accideresti su un orso, e non prevede camite in capo. Ma poveretto. Ma Zichi che niente. Ma insomma, io non capisco perché voi camionisti dovete avercela con questi intellettuali, che fanno magari dei pellegrinaggi, ma in questo caso Canterbury è una via storica. È Natale, Riandine, è Natale. Sono venuto a trovare gli amici camionisti, siccome è Natale non schiattiamo nessuno, passiamo tempo a fare la tombola tutta assieme. Tutte le cartelle fa sole. Primo numero, Beethoven, concerto per pianoforte in do minore opera 37, o Monaco. Che gente che la cabra? 37. Che è la smorfia? Bach, cantate sacre, se ricchi si mano opera 57. 57, ho scartellato. Ma cosa sta dicendo? Hai capito? Facciamo una tombola, diciamo Mozart, concerto campo 622. No, questo non va bene. Schumann, fantasia in opera 17. La disgrazia! Tocchiamo Ferre. Tocchiamo Ferre. Scusate un attimo, Riandino. Lapo, hai fatto terzina. Sei tutti lapi sono. E c'è Lapo che ha fatto una terzina. E cosa ha vinto? Ma lei ci deve dire, per cortesia, chi è... Lapo, no, è Stolline con Radio 3. Cosa ha vinto? Ha vinto un buono benzina per la francigena, si va tutta quanta gratis. Meno male, bravo. Ma voi lo dici, la parola preferita del personaggio misterioso non è Opane. Opane. Che fa 50, per dire. A zuppa cotta, che fa 68. Ma chi dica questo personaggio? Sì, questo personaggio chi è? È un personaggio. No, aspetta. Ma possibile sti camionisti continuano a provocare? È 4 stagioni Gori che provocano. Prima cercano, no? Sanno tutto, poi dopo ci ignorano, poi dopo attaccano addirittura quei camion. Si sono coalizzati proprio. Intellettuali che fanno i pellegrinaggi in giro per il mondo. Ho trovato però interessante l'associazione della smorfia con la numerazione dei concerti nella musica classica. Ma io no. Io credo anche che ci sia un'insorgenza della Hit Parade. Certo. La Hit Parade è un momento molto importante, si basa sulle vendite rilevate in negozi molto particolari, negozi della catena del dottor Gembe, sparsi dappertutto, da Frullone San Rocco a Maniago. Esiste anche un negozio online nel dottorgembe.shock. Leggiamo la Hit Parade insieme al nostro notaio per dare anche un tono, un crisma, diciamo. Certo, un crisma. Certo. Nico Gori può commentare, se vuole, la Hit Parade. Io faccio dei sottofondi per la... Al quinto posto troviamo Gianluigi Ponsacchi con il concetto spaziale numero 67, meglio conosciuto come Il Nano del Ponte. Vedere con gli orecchi, insomma, quel progetto lì. Teoria, il progetto Vedere con gli orecchi, che già è stato, diciamo, esposto anche nei mesi passati a Firenze in un'importante galleria. Ha avuto, sì, una mostra. Sì, c'è questo Il Nano del Ponte, cioè Ponsacchi entra nel taglio di Fontana, supera la superficie dell'immagine e mette il pubblico in condizione di vedere quello che egli volle che si vedesse. tela grigia, certo, cellula fotoelettrica, quando passi davanti al Ponsacchi, odi il Ponsacchi che dice quello che egli vide che tu stai vedendo in quel momento. Ma lui è ancora dentro? Al taglio. Al taglio di Fontana. Sì, c'è una festa dentro. Non vi rispondo neanche a voi. No? Guarda. Un acero rosso. La foglia dell'acero rosso che grida sul cielo di maggio. Il bianco muretto di sasso. Davanti un cavallo. In fondo c'è il ponte. Sul ponte c'è un nano. Un nano vestito di verde. Titolo: Il nano del ponte. Firmato in basso Ponsacchi. 100.000 euro, credo. 100.000 euro. Ponsacchi 100.000 euro. È anche un pezzo molto raro perché a Firenze, per esempio, venne esposta l'altra opera, La pecora nuda. La pecora nuda, nuda di Ponsacchi. Sì. Al quarto posto troviamo La casta, che è stata anche nominata spesso in questa trasmissione, di Jean-Antoine Ishtar. Cosa vuol dire Ishtar in babilonese? Vuol dire stella. Sarebbe come in italiano sarebbe Gian Antonio Stella. Ma pensa, non l'abbiamo originale. Detto, non l'abbiamo detto per 20 puntate, l'abbiamo detto ora. Si ruzzola. La casta, sì, questo essere, diciamo, relazionati tra sé, degli esseri umani in attitudine di comando, sì, che si tramanda da sempre in qualche maniera. Certo. Sentiamo la sta casta. Sì, la casta. Ah, la porte. Era fratello di Osmaklach. Era parente di Xrax Maflop. Era cugino di Ishtahap. E poi c'è Golgomoz. Che era la mamma di Atropanak. Il bisnipote di Giacomo. Urpala. Bellissimo. Sono tantissimi dischi questi. Io capisco l'intento filosofico, anche antropocentrico, se bello, bello, giusto? Sì, sì, bello. Però musicalmente lei pensa che si possa sostenere una cosa, cioè 37 dischi di... Io penso di sì, ma che sia, sì, questa fu messa anche in scena. Io andrei al terzo posto. Al terzo posto troviamo ancora una volta Ponsacchi, ma ci è venuto il dubbio, ripescando questo ritrovato, che non fosse probabilmente del tutto originale. Ecco, quindi il problema è anche nell'arte veder con gli orecchi. Ci sono i tarocchi, cioè ci sono i falsi. Devo dire, e com'è possibile? Io ho sentito dire spesso dalle mail degli ascoltatori, molti scrivono, è facile fare un Ponsacchi. È vero. Non è vero che è facile fare un Ponsacchi. Se uno dice la pecora nera, sentiamo per esempio. Io ho molti dubbi, infatti, sulla paternità di questo documento che stiamo ascoltando. Che peraltro invece è stato battuto all'asta di Buon Abitacolo, esatto, per 200.000 euro, quindi il doppio dei nostri Ponsacchi. Esatto. Sentiamo. Guarda, proprio lì sul ponte, un gnomo, un coso sul ponte, un coso che cade. Sulla destra, sulla sinistra, no. Un elfo. Non c'è la sicurezza del tratto di Ponsacchi. Guarda la ciabatta, guarda. La ciabatta bianchissima. Ponsacchi non avrebbe mai usato la ciabatta. Nel sole di marzo. Nel sole di marzo, la ciabatta vecchissima, il ponte. L'ognomo sulla destra. La ciabatta a sinistra. L'ognomo a destra, il ponte. La firma, Ponsacchi. No. Non basta. Manca la sicurezza del tratto. No, ma la musica stessa, sì, basta la musica stessa. Il pathos. La visione, lo sguardo. Portus. Lo sguardo non Portus. È quello lì. Quindi non si tratta di dire parole in libertà, ma di vedere e seriamente compiere l'atto di veder con gli orecchi. Io non ho visto una ciabatta passare, una vecchia, ma non vedo un quadro, non vedo un insieme, vedo... Mi piace una serie di cose, una serie di nomi. Cos'è una ciabatta? Niente. Se non la vedo. Andiamo avanti. Certo. Al secondo posto chi c'è? Troviamo un nuovo ingresso nella nostra hit parade e si tratta di Lando Previti con il brano Morbilità Eccessive. Lando Previti è un giurisperito del diritto romano. Giurista, un avvocato. Che insegna la Sapienza di Roma e ogni giovedì si esibisce alla buvette del Parlamento con il suo repertorio Dura Lex Sed Lex. In sostanza, che succede? Che per semplificare gli studi agli studenti, questo Lando Previti ha messo in stornelli delle sentenze vere del codice penale. Ah beh, così uno le memorizza meglio, memorizza meglio. Sopra la doccia. Quindi il discorso è di far capire più facilmente questa materia difficile, dicendo le cose vere. Nel campo del lavoro è capitato che resti a casa che te dai malato, la quale cosa il codice descrive col termine morbilità eccessive. Allegria. C'è la legge che te feci al 2110. Vero. Non t'agitare, che dice non te ponno licenziare. Ho preso questa cosa, no? Bello. Stornello per stornello lo studente è facilitato. Nelle scuole bisognerebbe portare questo Lando Previti. Ma già stanno lavorandoci. Ci stanno lavorando? Sì, insomma, nelle scuole anche altrove, ovunque, insomma. Le piace questo genere, Gori? A Vienna è un genere. A Vienna è un genere, lo fanno tutti. Lo stornello. Sì, sì, lo stornello viennese, è conosciuto come la Wiener Schnitzel. Ecco cos'è la Wiener Schnitzel. Schnitzel vuol dire stornello. Vuol dire stornello, stornello viennese, signor. Wiener Schnitzel. Stornello. Tu vai in un ristorante e chiedi la Wiener Schnitzel e arriva uno e canta la stornello. Ah, canta Wiener Schnitzel? Sì, sì. Diceva mio cugino sulle porte, mi voglio qui mangiare la sacher torta. Questo fanno così, fanno così. E andiamo, direi, con la musica della canzone al primo posto nella classifica. Certo. Sì, al primo posto è la canzone regina di questa trasmissione e si tratta della sigla finale del Dottor Djembé. Eu curtei um menino da laborar para você. Ah, o doutor Gemê, uma lei sem modinho dar educar, uma graminha dar recortar, uma nova rosa da consimar para você. E voilà, ringraziamo gli ospiti, Nico Gori. Buon grazie. Natale, buon Natale a tutti. Antonio Pascale, che è stato con noi al telefono, e il nostro notaio arrangiatore Mirko Guerrini. Grazie, grazie a tutti, auguri. La nostra curatrice Monica Nonno, il regista della Rai di Firenze Riccardo Basile, gli autori Fosco D'Amelio, Rosaria Parretti, tutti i nostri tecnici Andrea Cappelli, Andrea Taddeucci, Giovanni Ippolisi, Lorenzo Piscopo. Buon Natale a tutti, a domani con Davide Riondino e Stefano Bollani. Ciao. O doutor Gemê, eu tô teu menino da natural para você.